www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi. Mentre nella fabbrica di polli la disputa sul colore marrone sta assumendo toni esasperati, Kappa e Drago assistono attoniti al fenomeno della metamorfosi culturale. Come era logico che succedesse, adesso che si è sparsa la voce che il marrone e l'arancione sono praticamente lo stesso colore, guarda Drago, metà della fabbrica si è convertita alla setta degli arancioni, gli Hare Krishna. Beh, sono polli, Kappa, cosa pretendi? Secondo me si sta verificando un fenomeno delirante che è tipico del XXI secolo, cioè l'adesione ottusa a qualunque tipo di setta, comunità o gruppo esistente sul pianeta. Un fenomeno tristemente chiamato... la metamorfosi culturale. Presto, tenete Drago! Dobbiamo scongiurare che i polli inneschino un ciclo senza fine di metamorfosi culturali! Certo, comandante Kappa, ma che cosa vuol dire metamorfosi culturale? Metamorfose culturale è un fenomeno molto diffuso che consiste in individui che cambiano continuamente di religione, partito politico, squadra di hockey, modello di automobile, moglie e perfino sesso. Cantante Michael Jackson riassume in sua persona tutti i tipi di metamorfose possibili ed è perfetto esempio di superstar imbecilis, sottogruppo mutante di Homo sapiens sapiens. Anche un po' di sapiens, ma quello lì è soprattutto di Homo, eh? Te lo dico io. E quindi saremo a rischio di estinzione. Ma chi? Noi chi? Noi cristiano giudaici. Tenete Drago! Che cosa possiamo fare per tenere alto il vessillo della nostra civiltà millenaria? Saremo presto invasi dai marroni, dai verdi, dai rossi e dagli arancioni. Presto! Organizziamo delle ronde notturne con fucili, cappucci bianchi e croci infuocate. Mi sembra un'ottima idea. Non resterà un solo fattuto arancione in tutta la galassia. Presto! Presto lo devo dire io. E allora lo dico. Presto! La nuova crociata è cominciata! Contro la metamorfosi culturale! Contro gli arancioni! Contro la credulità popolare! Contro i maroni! Aia! Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce matiche in città. Scusa, sai, ti do del tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano a dir l'Ave Maria? Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi due calci in culo. Chiedi a me, vuoi essere mortificato? Chiedi a me, vuoi due cito Baudelaire. E i fiori ti faranno male, e spero possano bastare, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più. La fabbrica di polli, la fabbrica. Fratelli, molto tempo fa la vaga vagita aveva già identificato la carne, il pesce e le uova come cibo dannoso al benessere del corpo. Secondo la vaga vagita, tali cibi causano ansietà, sofferenza e malattia. Incredible malattia! La vaga vagita raccomanda cibi influenzati dalla virtù, cibi vegetariani. I cibi cari a coloro che sono influenzati dalla virtù accrescono la durata della vita, purificano l'esistenza e danno forza, salute, soddisfazione e felicità. Questi sono i cibi che vengono giornalmente preparati in tutti i centri dei polli Hare Krishna. Incredible polli Hare Krishna! La Bhagavad Gita dice che tali cibi sono nutrienti e gradevoli al cuore. Che si può chiedere di più? Incredible vegetariani! Olastri! Qui stanno cercando di convincermi a lasciare in pace i bruchi, i lombrichi, le cavallette e tutte le mie prede naturali. Ma Popolo, se vuoi vivere in pace con l'ambiente che ti circonda, dovresti provarci anche tu, scusa. Le cavallette hanno una vita, no? Eh sì, ma anche i polli, Solo che qui ci allevano e per poi macellarci. Sì, vabbè, dai, Pollo, cerca di staccarti dalla tua situazione contingente, no? Altrimenti che Pollo arancione sei? No, intanto io non sono un arancione, eh. Come no? No, io sono marrone. Ah, vabbè, magari dai, con qualche piccola sfumatura con la prugna. Però sì, marrone, eh. Brown Power, eh. Sì, vabbè, dai. Brown Power, musica funk, macchinoni e gli anelli, bello. Hai sentito? Sì, Drago, sì. Hai sentito? Macchinoni, macchinoni e anelli, come nei film Blaxploitation. Sì, solo che questo non è mica un film, No. Eh no, questo è il nostro sentimento marrone che esce fuori, E questo è il sentimento marrone. Ah, ecco, sì. È brown feeling. Ma io non ho mai sentito dire... No? Ma come brown feeling? Ma cosa stai dicendo? Mai sentito brown niente. Sugar, ma cos'è? Pollo, tu come al solito stai farneticando brown feeling, brown sugar. Non capisci più niente. Sei solo una vittima inconsapevole de... La metamorfosi culturale. E invece sì, ti senti te stesso, solo se fai parte di un gruppo separato dagli altri. Adesso ti basta il fatto di avere le piume marroni per identificarti con i veri marroni, quelli che già nascono marroni. Ma io sono nato marrone da genitori bianchi. Dai, come nelle famiglie dove nasce il figlio nero e non si sa chi è il papà, no? In effetti anche mio padre non è che fosse stato contento, eh. Sì, no, quella povera donna di mia madre ne ha prese di beccate. Però a volte può succedere anche per caso. Cosa? Che una gallina bianca va a letto con un polo marrone? Per caso? Che nasca un polo marrone da due poli bianchi, no? Magari un nonno, un antenato, no? Tu sei un esperto di Mendel e di genetica, certo. Scusa, Pollo, però tu non sei nato pollo. Tu sei nato negoziante di dischi? No, vabbè, sarà nato bambino, poi avrà fatto negoziante di dischi, no? No. I negozianti di dischi nascono già imparati. Già dietro il banco. Sì, io non ho ancora capito di cosa state parlando. Io sono nato marrone da genitori bianchi. Sì. E questo è qua. Adesso, se voi non spiace, vado a mangiarmi l'insalata di bruchi pelosi. Dai, che schifo. Ma scusa, ma non sei diventato vegetariano? Senti. Ma chi, io? Sei arancione. Scusa. Ma scusa, ma tu mi vedi a fare come quegli arebamba lì? Ma vado a Cuba. Ma non si chiamano arebamba, dai. No, arecciola si chiamano. Madonna, ma basta! Che cosa succederà adesso? Chi avrà la meglio tra gli innovativi neo-arancioni, gli irriducibili neo-marroni e i pochi vetero-bianchi rimasti nella fabbrica? Lo saprete soltanto sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo interrazziale allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muoce quasi mai... La fab-